sull'immigrazione, un bel film in due puntate. C'era ieri, c'era lunedì e martedì. Un bel film di una nave affondata di immigrati, praticamente sono rimasti dentro, quindi siccome loro erano pescatori di un porto siciliano lì, posto Paolo, e ogni volta che tiravano sulle reti c'era un morto dentro. Alla fine hanno scoperto che sotto, dove andavano a pescare loro, c'era una nave di clandestini morti. A proposito dei clandestini, oggi c'era una notizia, no? Un messicano è stato, mi pare, o respinto alla frontiera americana, o rimpatriato addirittura. Questo sempre per il caro Trump, no? È stato, credo, rimpatriato. Beh, questo si è ammazzato. C'era un ponte lì al confine, si è ammazzato perché è stato rimpatriato in Messico. Adesso il casino che scoppiami. Questo Trump è razzista, cioè, vabbè, i confini nazionali, ma lo stato confinante è quello, inutile fare lo stronzo così. Stanno facendo manifestazioni in tutta America contro di lui, persino chi l'aveva votato adesso si è reso conto di che elemento sia, è un tipo ricco che se ne sbatte le balle dei poveri e degli emigranti, capito? Non lo può vedere nessuno, pochi lo possono vedere. È un imbecille con i soldi che, capito, si palleggia contro Soiu, come da Berlusconi. Berlusconi è ricco, poi questo Trump è ancora peggio, è ricco sfondato, capito? Dovrebbero mettere una persona del popolo, come era Obama e tanti altri, a fare presidente, non un riccone, un nababbo, capito, che si fa le leggi a conto suo. Per carità, ma come si chiama? Qui c'ha tutte le idee strane, boh. Vedrai che gli spareranno, magari gli faranno qualche attentato e se lo leveranno dalle palle. Al campo di concentramento, Natali, campo di tiro. A me dà fastidio l'odore della cordite, fa schifo l'odore delle convulsioni dello sparo, ha un fiaco veo. E quando deve riprendere non riprende, quando deve riprendere lo riprende. Uio. Bene, adesso Claudio si sta leccando i baffi, sia per la partita che per la pizza di stanotte. No, non ti da c'è. La pizza sono stufo di mangiare, ti ho detto. E poi non stare a cucinare, a fare. Capito? Però non ho problemi a mangiare la pizza, tutti i giorni la posso mangiare, ma non solo quello. Tutto quello che produce nelle Telberghi. Tu mangiati, oggi ci ha portato a me la mamma due cioccolati di quelli della Lindor, fatto a uovo, ma grande quanto un uovo vero, un uovo che cucini, dentro tutto ripieno di Nutella. E me l'ha vista mia figlia in casa. Ah, tu sei andato al Thai Coffee, no, al Thai Break. Il Thai Break è a Monserrato, il Thai Coffee è al Tanit. Se tu mi dici Thai Break è a Monserrato, il Thai Coffee è al Tanit, capito? Lì ci va pochissimo perché è sempre lo stesso gruppo, però lì appartiene al Monserrato, ok? E quindi va lì, è lì. Quando vai a Monserrato, lì è sempre lì in cassa. Okay. Anche al Thai Break c'è scritto Thai Coffee, Dolce Vita, è tutto un gruppo, è tutto un gruppo, capito? Allora, lui appartiene lì a Monserrato e quindi lavora a Monserrato. Qualche volta va a fare qualche sostituzione se necessaria, ma molto molto raramente. Però già detto, 4 sono su C, 4. Due maschi e due donne, no? Di Monserrato sono 4 soci, del Thai Coffee il proprietario non so, via, sono tutti quelli che hanno fatto le dediche, K-Grappa, sì, il proprietario del Thai Coffee è uno, che è un dottore commercialista, ed è suo, mentre appartiene anche Socio, dall'altra parte al Tepec, con gli altri tre. Yes. Oh, io mi sento male, mi sono schiacciato una palla. E due direi di che già. No, come ha cavallato le gambe in un modo un po' forzato. Che male, che ti sale poi alla pancia, cazzo, allo stomaco il dolore. Mamma mia. Il Bastiano lo vinti con un altro. Aspetta che vado a orecchiare. No, io non c'ho bisogno di orecchiare, c'ho l'aria accesa. C'ho l'antenna interna, no? Non disturbo assolutamente. E quindi genio, genio. Ma di che cosa? Di radio o di segnale? Ma ce la stare com'era, non so, chi è che vuole entrare? Ma io la sento bene lo stesso la radio, è un'ottima radio quella, ribadisco. Chi è? Buonasera. Oh, ciao, vedi, buonasera, tu vedi? Giorni dopo non ha funzionato. Sempre il solito problema di sotto. Ma scusate un attimo che stavo, lo saluto, vi faccio a te. Ciao, ciao, ciao. Se voi siete veloci tutti e due, niente è sempre anguato, sempre venne battato. Sempre a entrare a chiacchierare, a parlare, che è chiamato a venire varie per lui. Ciao Gianfranco, buonasera. Vabbè, quello basta, lunga e tanto. No, volevo fare un piacere io, però meglio ti puoi portare sul solito. Mi dà un crepo, guarda, capito? A parlare lì non fai il tipo, hai solo quando parla con me, eccetera, fatti vuoi, per carità. Ha risposto, io ho sentito un attimo il silenzio, non rispondeva. Tutte e due te le dovrei schiacciare, ma con la testa, vero? Certo che sì. Io non avessi nulla mio, Marco, stai pensando a queste cose. Ma quella gente è meglio perderla che acquistarla, mi sei convinto che hai fatto triste. Lascia via. Senti fatta, perché è bello. Avanti, ciao qui e ciao. Ma credo di pugnaleggio, momento dell'altro che è parito, è un periodo che non lo intendo. Ancora non è sciacamato bene. Se ne accorgerà fra un po' cosa le succede a quell'individuo miserabile. Cosa vuoi da Elio? Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi da Elio. Elio è impegnato, c'ha da fare in campagna, non è come te, no Gianfra. Tutto su premium, no? Oh, ieri c'era una partita, ne danno una alla volta al canale 5, capite? Però è tutto su premium, dai. E fai bene, avanti genio. Sai che se va vedendo, perché non senti a Gianfranco? Quello è Natalino che non senti, ma Gianfranco già lo sente. Perché lui è sempre con un vatte, capito? Agita che ha il telefono, agita. Vedi, facciamo sollevare la potenza. Va bene, io sono con 20 watt. 20 watt sul palato, 10 di portante. E va più che bene. Ormai non scoppia il cavallo. Prima l'altro è sempre un manettone 4.30. Oh yeah! Ah, io rata pignata, si è andato in bagno e fatto la pipì, e poi di solito i pipistrelli fanno la pipì dall'alto, così è oggi. Oh, una volta trovato in un impianto nostro, c'era un foro in una soppressa per pressare i fan. Lasciano questa non so se sono fecci, cosa sono, questo liquido bruttissimo, sì, ma una cosa bruttissima, sembra della polverina, una cosa del genere, che schifo, mamma mia. E perché c'era questo foro, quindi se ne sono entrati lì dentro, tra l'altro hanno fatto anche danno, perché mordicchiano, no? Non so come te di giuri chi so. Ecco Gianfra, aumenta un pochino che non ti sente, Eugenio, il produttore, l'aiuto. E la Madonna, che non dico devi farvi da sempre con un vatter. Ma che il produttore c'è. Cosa che mi interessa. interessa, ma quando mi interessa vedrai cosa, cosa ricevi da lì sopra. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Con 50.000 vatte l'imbara lo eccito, da lì, da qua manco lo vedo. Ciao Marco, devo fare la pipì. Ah,